America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, la Fed ha chiuso il comitato monetario di giugno, molti davano per scontato che ci sarebbe stato già adesso un aumento dei tassi. Io non ero di questa opinione, ve l'ho detto più volte qui su Radio 24 e di fatti non è successo nulla. L'incertezza resta, sarà settembre, sarà più avanti, quando sarà? Questo lo decideremo sulla base dei dati economici che usciranno da qui ai prossimi mesi, ma di certo quando abbiamo, come è successo in maggio, un calo dello 0,2% della produzione industriale invece di un aumento dello 0,2%, la Fed resterà prudente, la Fed tenderà a non aumentare questi tassi di interesse, può permetterselo perché l'inflazione resta sotto controllo. Il parametro di fondo è quello che l'economia americana, e ve lo sottolineo perché ne parlerò poco più avanti nel corso di questa trasmissione, facendo un riferimento alla campagna elettorale repubblicana e a Jeb Bush, l'economia, vi dicevo, resta un'economia che avanza, ma che avanza con difficoltà. Che cosa potrebbe restituire un po' di patina di aggressività all'economia americana? Un accordo per la liberalizzazione degli scambi commerciali nel Pacifico, per cominciare, e poi nell'Atlantico. Sentiamo. Now, in a blow to President Obama, the House chose not to pass a key part of a package of bills that would have granted him authority to push through a Pacific trade deal known as the Trans-Pacific Partnership, or TPP. Ecco, la notizia di martedì, la Camera degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento che permette di posticipare per 6 settimane il voto sul TAA, Trade Adjustment Assistance. Non vorrei sembrarvi troppo tecnico, ma questa è la misura che non era stata votata quando una decina di giorni fa Barack Obama si presentò al Congresso per ottenere il potere negoziale speciale che gli avrebbe consentito di dare nuova vitalità al TTP. Barack Obama guarda in avanti, guarda al Pacifico. Lui stesso disse all'inizio del suo mandato di essere il presidente del Pacifico e dunque vuole, proprio da un punto di vista storico, cercare di ottenere un risultato fondamentale, importante per la sua amministrazione. Io credo, spero che alla fine ci si metterà d'accordo. Quello che si è riusciti a fare è di recuperare almeno 6 settimane per poter rimettere in carreggiata questo progetto di legge. There's not a reason in the world why we cannot grow at a rate of 4% a year, and that will be my goal as president. Ecco, torniamo a Jeb Bush. Avete sentito una delle sue dichiarazioni centrali quando l'altro giorno ha dichiarato di essere pronto a correre per la Casa Bianca. È una dichiarazione che tiene insieme i due elementi di cui parlavo prima. Il mio obiettivo da presidente, dice Bush, è una crescita economica del 4% che possa generare 19 milioni di nuovi posti di lavoro. Ecco, può sembrare una provocazione, può sembrare il solito slogan elettorale, in realtà Bush qui tocca un tasto delicatissimo che non necessariamente lo aiuterà sul piano politico. Perché? Perché proprio per quello che vi ho detto prima, cioè per i problemi di deflazione, per i problemi di un invecchiamento della popolazione, per i problemi di un calo della produttività, l'economia americana non sta offrendo una performance brillante. Se non ci saranno delle iniziative tipo quella per la liberalizzazione commerciale, non ci sarà quella spinta in più che dovrebbe consentire all'economia americana di recuperare grinta. Perché? Perché non abbiamo sull'orizzonte tecnologico delle scoperte fondamentali come sono state per esempio le applicazioni di internet degli anni 90 che hanno rivoluzionato completamente la produttività dei lavoratori americani, hanno prodotto una vera e propria rivoluzione industriale che ha introdotto un circolo virtuoso dell'economia, un circolo virtuoso che ha portato il bilancio in pareggio, crescita straordinaria, Bill Clinton come grande, grande eroe di quegli anni. E dunque la promessa di Jeb Bush, non ha molto fondamento secondo me, perché i problemi strutturali dell'economia americana e quelli strutturali dell'economia mondiale per ora non sono avviati verso una risoluzione. Prendiamo le previsioni sulla popolazione. Nel decennio 2015-2025 la popolazione nella fascia fra i 25 e i 54 anni crescerà dai 127 milioni di persone, che sono quelli attuali, a 134, un aumento di 6,3 milioni in quella fascia di popolazione chiave in 10 anni. Ecco, il dato è scoraggiante perché riflette quello che sappiamo essere il problema anche di questo paese, cioè un invecchiamento della popolazione. Ora, per carità, le persone più anziane sono molto più produttive, vivono meglio, lavorano bene, continueranno a lavorare, però sono quegli aspetti strutturali che non possono essere ignorati nel momento in cui si fa un piano economico serio. E dunque, forse ha più ragione Hillary Clinton quando fa del suo slogan elettorale l'idea dell'inclusive capitalism, cioè di quel capitalismo inclusivo che dovrebbe redistribuire la ricchezza un po' fra tutti. Ecco, Bush naturalmente ha un punto di riferimento storico per fare un'affermazione di questo genere, perché in 50 anni, nel mezzo secolo, fra il 1950 e il 2000, la crescita è stata superiore al 4%, grosso modo per la metà del tempo. E negli ultimi, diciamo, 7-8 anni, soltanto 2 trimestri hanno mostrato una crescita superiore al 4%. Quindi è proprio, non sembra questa cosa essere nelle carte, dovendo esaminare quali sono gli elementi che porteranno Bush a rispettare questa sua promessa del 4%, ci sono un aumento degli impieghi fra i teenagers e naturalmente fra gli anziani in età pensionabile, questo forse è possibile, un aumento dei giovani in età di lavoro che cominciano a cercare attivamente lavoro invece di starsene a casa con i genitori, e non so se questo succederà perché ci vuole poi motivazione. Che tipo di lavoro vai a fare? Che qualità del lavoro gli puoi proporre? E a quel punto per alcuni di questi, lo abbiamo visto negli ultimi anni, è più facile starsene a casa. Infine, un aumento degli impieghi fra gli immigrati che in generale si sono dedicati a lavori manuali. Insomma, un percorso difficile quello di Jeb Bush, ma del resto lo sappiamo, è un percorso difficile per tutte le economie industrializzate che faticano a trovare un sentiero per una crescita solida. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di difficoltà dell'economia americana, di una promessa di Bush di restituire quel vigore, quella crescita del 4% che appartiene a un passato che non so se si ritroverà presto. Perché? Perché tutti sono un po' in difficoltà. Everybody is hurting. E dunque, they ram. Everybody hurts. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life. New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.